Se tutti nel locale ritenevano il signor di Charlus un principe, c'era in compenso molto rimpianto per la morte d'un tale di cui i ragazzi dicevano «Non so come si chiami, pare che sia un barone, e che altri non era che il principe di Foix, il padre dell'amico di Saint-Louis». Mentre sua moglie era convinta che stesse molto al circolo, in realtà passava ore da Jupien a chiacchierare, a raccontare storie del bel mondo davanti a dei teppisti. Era come suo figlio, un gran bell'uomo. È straordinario che Charlus, probabilmente perché l'aveva conosciuto solo in società, ignorasse che il principe aveva i suoi stessi gusti. C'era addirittura chi diceva che li avesse indirizzati un tempo sul proprio figlio. L'amico di Saint-Louis, ancora collegiale, il che era probabilmente falso. Al contrario, molto informato su costumi che tanti ignorano, egli sorvegliava con grande attenzione le frequentazioni del figlio. Un giorno che un uomo, peraltro di bassa estrazione, aveva seguito il principe di Foix fino al palazzo paterno, dove aveva lanciato un biglietto attraverso la finestra, il padre l'aveva raccolto. Ma l'uomo, pur non appartenendo per aristocrazia allo stesso mondo del signor di Foix, padre, vi apparteneva da un altro punto di vista. Non fece fatica a trovare fra comuni complici un intermediario che mise a tacere il principe, provandogli che era stato lo stesso giovane a provocare tanta audacia in un uomo maturo. Ed era possibile, perché il principe era riuscito a preservare il figlio dalle cattive frequentazioni esterne, ma non dall'ereditarietà. Del resto, il giovane principe di Foix rimase, come il padre, ignorato in quel senso dalle persone del suo ambiente, sebbene nessuno si spingesse più in là di lui con quelle d'un altro. «Com'è semplice!» «Non si direbbe proprio che è un barone», dissero alcuni abitué quando il signor di Charlus se ne fu andato, accompagnato fin giù da Jupien, con cui il barone non mancò di lagnarsi della virtù del giovanotto. Dall'aria scontenta di Jupien, che in precedenza doveva averlo catechizzato, si capì che il falso assassino stava per prendersi una bella lavata di capo. «È tutto il contrario di quello che m'hai detto», aggiunse il barone, «perché Jupien mettesse a profitto la lezione per un'altra volta. Sembra che abbia buon cuore, esprime sentimenti di rispetto per la famiglia. Eppure con il padre è tutt'altro che in buona», obiettò Jupien. «Abitano insieme, ma lavorano in due bar diversi». Come crimine, era evidentemente debole in confronto all'assassinio, ma Jupien era stato preso alla sprovvista. Il barone non aggiunse altro perché, pur volendo che qualcuno preparasse i suoi piaceri, voleva dare a se stesso l'illusione che non fossero preparati. «È un vero bandito. Ha detto quelle cose per ingannarvi. Siete troppo ingenuo», aggiunse Jupien per discolparsi, riuscendo solo a urtar l'amor proprio del signor di Charlus. «Pare che abbia un milione da mangiarsi ogni giorno», esclamò il giovanotto di 22 anni, con cui questa asserzione non sembrava di dire niente di inverosimile. Presto si sentì il rumore delle ruote della carrozza, che era venuta a prendere il signor di Charlus non lontano da lì. Nello stesso istante vidi entrare, a passo lento, a fianco d'un militare che usciva evidentemente con lei da una camera vicina, una persona che mi parve una signora d'una certa età, in sottana nera. Presto m'avvidi del mio errore. Era un prete. Era quella cosa tanto rara, e in Francia assolutamente eccezionale, che è un cattivo prete. Evidentemente il militare stava prendendo in giro il suo compagno a proposito della scarsa conformità della sua condotta al suo abito, perché questi, in tono grave e alzando verso il viso repellente un dito da dottore in teologia, disse sentenziosamente: «Che volete? Non sono...» Mi aspettavo un santo. «Un'angela!» Non gli restava del resto che andarsene, e si congedò da Jupien che, accompagnato il barone, era appena risalito. ma per sbadataggine, il cattivo prete dimenticò di pagare la camera. Jupien, che non perdeva mai il suo spirito, agitò la cassetta in cui metteva l'obolo di ogni cliente e la fece risuonare dicendo: «Per le spese del culto, reverendo!» Il laido personaggio si scusò, diede il dovuto e sparì. Jupien mi raggiunse nell'antro oscuro, dove non osavo fare alcun movimento. «Venite un momento nel vestibolo, dove i miei ragazzi fanno festa, mentre io salgo a chiudere. Dal momento che avete preso una camera, è perfettamente normale.» C'era il principale. Pagai. In quel momento entrò un giovane in smoking e chiese con tono autorevole al principale: «Domattina ho un impegno a colazione. Posso avere Leon alle 11:15, anziché alle 11?» «Dipende», rispose il principale, «da quanto tempo lo terrà il reverendo?» Questa risposta non parve soddisfare il giovane in smoking, che sembrava già pronto a inveire contro il prete. Ma non appena mi ebbe visto, la sua collera imboccò un'altra strada, e andando dritto verso il principale: «E questo chi è? Cosa significa?» mormorò a voce bassa ma corrucciata. Il principale, molto seccato, spiegò che la mia presenza non aveva alcuna importanza. Avevo preso una camera. Il giovane in smoking non parve affatto placato da questa spiegazione. Continuava a ripetere: «È estremamente spiacevole. Sono cose che non dovrebbero succedere. Sapete quanto mi dia fastidio? Tanto farete che non metterò più piede qua dentro.» L'esecuzione di questa minaccia non parve tuttavia imminente, perché andò via furioso, ma raccomandando che Leon cercasse d'essere libero per le 11:15, alle 10:30, se possibile. Jupien mi raggiunse nuovamente e scese con me fino in strada. «Non vorrei che mi giudicaste male», mi disse. «Questa casa non mi fa guadagnare tutto il denaro che immaginate. Sono costretto a prendere dei clienti onesti, anche se con quelli soltanto non si farebbe che rimetterci. Qui è il contrario dei Carmeli. È grazie al vizio che vive la virtù. No. Se ho preso questa casa, o meglio, se l'ho fatta prendere al gestore che avete visto, è stato unicamente per compiacere il barone e dare un po' di svago ai suoi ultimi anni.» Jupien non voleva parlare soltanto delle scene di sadismo, come quelle cui avevo assistito, né dell'esercizio vero e proprio del suo vizio da parte del barone. Questi, ormai, persino per la conversazione, per la compagnia, per giocare a carte, stava bene solo con gente del popolo che lo sfruttava. Lo snobismo della feccia non è certo meno comprensibile dell'altro. I due, del resto, erano stati a lungo uniti, alternandosi l'uno all'altro, nel signor di Charlieu, il quale trovava che nessuno era mai abbastanza elegante per le sue relazioni mondane, né abbastanza apache per le altre. «Detesto il genere medio», diceva. «La commedia borghese è fasulla, per me. Ci vogliono o le principesse della tragedia classica o la farsaccia. Niente via di mezzo. O Phèdre o le saltimbanque.» Ma alla fine l'equilibrio fra questi due snobismi si era rotto. Fosse stanchezza di vecchio o estensione della sensualità alle relazioni più banali, il barone non viveva più che con gli inferiori, raccogliendo così, senza volerlo, la successione di taluno dei suoi grandi antenati: il duca di La Rochefoucauld, il principe d'Harcourt, il duca di Berry, di cui Saint-Simon racconta come passassero la vita con i loro lacchè, che li alleggerivano di somme enormi al gioco, al punto che chi doveva andare a far visita a quei grandi signori era in imbarazzo all'idea di trovarli intenti a giocare familiarmente a carte o a bere con i loro domestici. «E soprattutto», aggiunse Jupien, «per evitargli dei fastidi, perché il barone, sapete, è un vero bambinone. Anche adesso che qui ha tutto quanto può desiderare, va ancora all'avventura a cercarsi dei guai. E generoso com'è, e con i tempi che corrono, potrebbero esserci spesso delle conseguenze. L'altro giorno, per esempio, Un fattorino d'albergo si è preso una paura da morire a causa di tutto il denaro che il barone gli offriva perché andasse a casa sua. A casa sua, che imprudenza! Il ragazzo, a cui peraltro piacciono solo le donne, si è rassicurato quando ha capito cosa si voleva da lui. Sentendo tutte quelle promesse di denaro, aveva preso il barone per una spia e si è sentito sollevato quando ha visto che ciò a cui gli si chiedeva di rinunciare non era la fedeltà alla patria, ma il suo pudore, il che forse non è più morale, ma è meno pericoloso e soprattutto più facile. E io, ascoltando Jupien, mi dicevo che peccato che il signor di Charlus non sia romanziere o poeta, non per descrivere ciò che vede, ma il punto in cui uno Charlus si trova ad essere riguardo al desiderio fa nascere intorno a lui gli scandali, lo costringe a prendere la vita seriamente, a mettere emozioni nel piacere, gli impedisce di fermarsi, di immobilizzarsi in una visione ironica ed esteriore delle cose, riapre ininterrottamente in lui una corrente dolorosa. Quasi ogni volta che si dichiara a qualcuno subisce un torto, se non rischia addirittura la prigione. Non solo l'educazione dei bambini, anche quella dei poeti la si fa a suon di schiaffi. Se il signor di Charlus fosse stato romanziere, la casa messa gli su da Jupien, riducendo così sensibilmente i rischi, quantomeno, perché un'irruzione della polizia era pur sempre da temere, i rischi relativi a una singola persona, delle cui disposizioni il barone non poteva mai per la strada esser sicuro, sarebbe stata per lui una disgrazia. Ma il signor di Charlus, in arte, era solo un dilettante, che non aspirava a scrivere e non era dotato per farlo. «Del resto», riprese Jupien, «vi confesserò che non provo molti scrupoli a procacciarmi guadagni di questo genere. Ciò che si fa qui non voglio più nascondervelo. Mi piace. È il gusto stesso della mia vita. Ora, è forse proibito ricevere un compenso per qualcosa che non giudichiamo colpevole? Voi siete più istruito di me e mi direte certamente che Socrate pensava di non poter ricevere denaro per le sue lezioni, ma ai nostri tempi i professori di filosofia non la pensano così, né i medici, né i pittori, né i drammaturghi, né i direttori di teatri. Non crediate che questo mestiere mi faccia frequentare solo delle canaglie. È vero che il direttore d'una casa di questo genere non riceve, come una grande cocotte, che uomini, ma uomini di primo ordine in ogni campo e generalmente a parità di posizione fra i più fini, i più sensibili, i più piacevoli nell'ambito della loro professione. Questa casa potrebbe trasformarsi in un batter d'occhio, ve lo assicuro, in un centro letterario e in un'agenzia giornalistica. Ma io ero ancora sotto l'impressione dei colpi che avevo visto prendere dal signor di Charlus. E a dire il vero, conoscendo bene il signor di Charlus, il suo orgoglio, la sua sazietà dei piaceri mondani, i suoi capricci pronti a mutarsi in passioni per uomini di infimo rango e della peggior specie, si può capire benissimo che il grosso patrimonio che avrebbe reso felice un parvenu, permettendogli di far sposare la figlia a un duca e di invitare delle altezze alle sue cacce, Charlus era contento di possederlo perché gli permetteva di controllare una o forse più case dove stazionavano in permanenza giovanotti della cui compagnia si dilettava. Forse non ci sarebbe stato neanche bisogno per questo del suo vizio. Era l'erede di tanti grandi signori, principi del sangue o duchi, di cui Saint-Simon racconta che non frequentavano nessuno che si potesse nominare e passavano il loro tempo giocando a carte con i camerieri, cui davano somme enormi.